Allora, torniamo in diretta con Cronache di Regime, sono le 19:58, come anticipato prima, ora andiamo a farci una chiacchierata con un compagno riguardo l'iniziativa antimilitarista che si è tenuta sabato 19 marzo presso il laboratorio Casciavitti in via San Faustino 64 a Milano. Ciao, ci senti? Sì, ciao Ciao. a tutte e tutti e grazie dell'invito. Ok. Allora, prima di parlare un po' anche insomma, del resoconto dell'iniziativa, appunto, volevamo chiederti un po' l'esperienza dell'Assemblea antimilitarista a Milano nel corso degli anni, visto che appunto è stata l'Assemblea antimilitarista ad aver organizzato questo confronto e questa chiacchierata anche con vari interventi, dopo ci spiegherai meglio. Sì, innanzitutto mi presento, sono Daniele Ratti della Federazione Anarchica Milanese. Noi, diciamo che da anni appartiene un po' alla nostra storia profonda, l'antimilitarismo. Naturalmente ora viene declinato in modo completamente diverso di quello che erano decenni e decenni fa. Non è adesso mia intenzione ripercorrere, farò proprio una storia dell'evoluzione dell'antimilitarismo nell'ambiente anarchico, anche perché per venire all'attualità si sono costituite queste assemblee antimilitariste che sono aperte assolutamente a tutti. Ricordo che l'organizzazione, la struttura della Federazione Anarchica Italiana ha anche facilitato, essendo una struttura strettamente territoriale, federativa al massimo, ha facilitato molto uno svilupparsi delle esperienze antimilitariste. Facciamo degli esempi pratici. In Nord-Est, che al tempo della leva e quindi della guerra fredda era il territorio elettivo per la presenza militare, ha sempre sviluppato quindi forte contestazioni e riflessioni sulla enorme concentrazione che in quegli anni c'era sul territorio. Ricordo la Sardegna, che è sempre stato territorio elettivo per i poligoni di tiro, oltre che di base militare. Ricordo la Sicilia, che è sempre stata un'importante centrale, proprio nato del Mediterraneo. Lì si è sviluppato negli ultimi anni un movimento Nomus contro il monitoraggio di questi mega radar installati dalla NATO. Ricordiamo la contestazione degli F-35 a Ghedi, che ha interessato molto il territorio. Diciamo che la nostra struttura prettamente federale, territoriale, usiamo la parola più semplice, ha facilitato molto l'antimilitarismo e ha naturalmente coagulato, questo è il nome dell'assemblea antimilitarista che ripeto aperto a tutti, ha coagulato nelle singole esperienze, nei singoli territori, i vari momenti di contestazione. Naturalmente c'è poi la necessità di trovare una sintesi, una visione d'insieme. Ecco quindi il nascere, veniamo negli ultimi anni, delle assemblee antimilitariste che raccolgono le esperienze dei singoli territori, le variegate esperienze dei singoli territori, ma soprattutto producono analisi teoriche e azioni pratiche che sono di carattere molto più generale. E ripeto, non abbiamo targhe politiche, bandiere politica, al di là di chi si preoccupa di organizzarlo, che è la Federazione Anarchica Italiana. È cambiato molto il tipo di analisi, parlando sempre delle esperienze storiche nel corso degli anni delle assemblee antimilitariste, perché è cambiato moltissimo il mondo militare nel suo complesso. Forse, ma senza, togliamo pure il forse, è l'unica cosa che in questo paese si è modificata radicalmente. Perché si è modificata radicalmente? Si è modificata radicalmente perché l'Italia è entrata in una nuova fase da 15 anni a questa parte. È entrata in una fase che ha tutte le caratteristiche di di un neocolonialismo o di un imperialismo italiano. E quindi lo strumento militare è uno strumento del tutto coerente per mantenere questa presa coloniale, questa presa imperialista. E queste modificazioni si sono avute a partire nel 2015, quando nel Libro Bianco della Difesa, che rappresenta ancora ad oggi la linea guida principale della riorganizzazione delle forze armate, c'è un capitolo fondamentale dove si dice che cosa si intende per interesse nazionale. Per interesse nazionale, citato testualmente, è tutto ciò che serve per assicurare l'importazione di quelle materie prime, soprattutto dell'energia, di cui il nostro paese ne è privo, e contemporaneamente assicurare il buon esito delle nostre esportazioni. Le missioni internazionali militari, quindi, sono il supporto pratico, il braccio operativo per raggiungere questi due obiettivi. E allora ecco che la macchina militare, nella sua profondità, in tutte le sue pieghe, ha dovuto adattarsi a un radicale mutamento, mutamento di tipo quantitativo, di tipo qualitativo. Quantitativo al contrario, non sono aumentati, sono in costante decrescita perché invece è aumentato in modo esponenziale la qualità degli effettivi, così come è aumentato in modo esponenziale gli investimenti che vengono fatti nel mondo militare, ne parleremo poi dopo. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Al di là delle caratteristiche dei territori che, come ho detto prima, hanno sviluppato esperienze per quanto il territorio è impegnato, no? Vedi la Sardegna, i poligoni, vedi il Nomus in Sicilia, vedi le caserme abbandonate che ora, ne parleremo alla fine, stanno avendo una svolta incredibile, tinteggiandosi di verde nel senso proprio pratico della parola. Là nel nord-est, vedi Ghedi contro gli F-35, ma abbiamo sviscerato, rivoltato come un calzino tutto il mondo militare. Abbiamo studiato la sua struttura intima, abbiamo studiato i rapporti tra ricerca scientifica, università, apparato industriale militare. Abbiamo individuato tutto l'apparato industriale militare, non solo le grandi e notissime imprese, sino alle medie e piccole e piccolissime imprese che servono l'apparato militare. Abbiamo individuato la comunicazione, le modalità di comunicazione, perché quello è stato un compito ed è un compito fondamentale per presentare il militare in un modo del tutto nuovo, e come viene presentato oggi il militare è completamente diverso da quello che era solamente 15 o 20 anni fa, perché è la parte più sana del paese, ma non per i valori etici, per la difesa della patria, no, è la parte più sana del paese perché è la parte più tecnologica, è la punta più avanzata della tecnologia, è la punta più avanzata della ricerca scientifica, è tutto ciò che di meglio il paese può offrire. E quindi la comunicazione diventa importantissima. Abbiamo studiato, studiamo, perché lo studiare non ha mai fine, perché il mondo è continuamente in evoluzione, tutte queste trasformazioni enormi che ha avuto il mondo militare. E allora diciamo che si è concretizzato questo lavoro e qui poi arriviamo, finiamo con il capitolo dell'esperienza storica dell'Assemblea antimilitarista, è stato avuto concretezza in tre momenti, nel 2018, e nel 2018, perché il 2018? Perché era il centenario del grande massacro imperialista della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo fatto un convegno a Milano, partecipatissimo, qui ne è poi seguita una pubblicazione, gli atti di questo convegno, in cui hanno partecipato circa una quindicina di realtà completamente differenti, di ispirazioni differenti, di sensibilità politica differente, ognuno ha portato il proprio contributo. Ne è seguito un convegno in forma un po' più ridotta a Gorizia, perché a Gorizia? Perché poi a Gorizia c'è stata la manifestazione nazionale, quello è il luogo simbolo di quello che era il fronte, uno dei fronti imperialisti della prima guerra mondiale. E quindi in quella fase, nel 2018, diciamo che si è maturato questo metodo di lavoro, di analisi, di valutazione, di coinvolgimento di varie realtà, che ci permette di seguire con costanza e precisione tutto lo sviluppo che ha il mondo militare. Sviluppo del mondo militare sta a significare, e questo è il nocciolo della questione, che qualsiasi questione, vai dal militare, vai a quella ecologica, le dico le due più sul tappeto, non possono mai essere assolutamente analizzate e valutate al di fuori del contesto generale. E il contesto generale che vuole il mondo militare, che cos'è? È quello che ho detto prima, cioè la sicurezza nazionale. E se la sicurezza nazionale significa garantire le importazioni di quelle materie prime e soprattutto l'energia di cui noi abbiamo bisogno, ecco che, e veniamo adesso all'iniziativa di sabato, l'energia diventa un momento centrale, il motore delle missioni internazionali, non solo italiane, ma praticamente del confronto militare nel mondo. È chiaro che con quello che sta succedendo ora, in queste 3 settimane, collegare energia e guerra diventa facilissimo. Beh, non era così facile negli anni scorsi. C'erano molte perplessità, nel collegare le due cose. Oggi è palese, è chiaro quello che sta succedendo nell'est dell'Europa. E quindi abbiamo iniziato un secondo percorso dell'Assemblea antimilitariste che ha preso avvio con 3 tappe, due, una conclusa a novembre con una manifestazione a Torino contro la Fiera dell'Aerospazio. Torino si tiene con un ciclo biennale, questa Fiera dell'Aerospazio in realtà è fiera, ma non è esposizione fieristica, è sede proprio di contratti, di firme di contratti di materiale bellico. Quale materiale bellico? Il più specializzato, quello dell'avvenire, quello digitale, quello dell'aviospazio. Pochi sanno che l'Italia, insieme a Israele e gli Stati Uniti, è il leader mondiale dell'aviospazio. Non c'è componente di satellite in uno spazio che non sia italiano, e lo spazio serve poi per la costruzione degli armamenti più sofisticati, quelli tecnologicamente più avanzati. Quindi abbiamo fatto la prima tappa lì, a Torino, adeguatamente preparata, con incontri su tutto il territorio, non solo torinese e nazionale, e siamo arrivati quindi a ciò che abbiamo fatto sabato, cioè la tappa milanese. La tappa milanese, che era stata preceduta da una preparazione, sempre lì al Kashavit, dai compagni del Kashavit, recentemente ci hanno sempre ospitato, e sono parte anche attiva loro dell'Assemblea, il 16 di gennaio. E sono stati decisi due momenti fondamentali. Primo, un incontro convegno incentrato sull'ENI, cioè ENI vuol dire energia. Se fossimo stati in Francia sarebbe stato incentrato su Total, se fossimo stati in Inghilterra sarebbe stato incentrato su Shell. E quindi ENI come attore principale del militarismo italiano, ovvero del colonialismo italiano. Seconda tappa sarà la manifestazione contro l'ENI il 2 aprile alle ore 14:30, che si terrà non solo simbolicamente, ma in modo molto concreto nel cuore della piazza finanziaria nazionale che si trova qui a Milano. Partiremo quindi dalla piazza degli affari, dalla piazza della Borsa, e ci sposteremo in piazza della Scala, dove c'è la sede della maggiore potenza finanziaria italiana, che poi è la quarta europea ed è la dodicesima mondiale, che è intesa San Paolo. Questo proprio per coniugare, come se l'energia è il motore della guerra, dietro l'energia ovviamente non può esserci che la finanza, che in prima persona finanzia le società energetiche e finanzia contemporaneamente tutto l'apparato industriale militare. Quindi queste qua sono le due tappe milanesi. Una si è conclusa con il convegno e l'altra prenderà corpo con questa manifestazione del 2 aprile. Arriviamo quindi al resoconto del convegno di sabato. Sabato si è tenuto lì, al CASHES in via San Faustino. È stata un'assemblea molto partecipata, più di 60 persone, in realtà, come sempre, compongono un'assemblea militarista assolutamente distinte, diverse, con sensibilità politiche molto differenti, e si è caratterizzata su titolo Guerra e Energia, l'ENI e le missioni militari italiane in Africa. Perché in Africa? Perché l'Africa è il cuore dell'imperialismo italiano e non a caso è il cuore dell'attività dell'ENI. Se voi andate sul sito dell'ENI e vedete dove l'ENI è presente, e fate poi contemporaneamente lo stesso lavoro dove noi siamo presenti, farete, usiamo un linguaggio moderno, esattamente un copia et incolla. Do due dati per capirci. L'ENI, che è tra le maggiori 10 società petrolifere mondiali, degli 8,1 milioni di barili al giorno di petrolio che mediamente estrae, 1,4 provengono dall'Africa. Quale fascia? Il sud del Mediterraneo, cioè il nord dell'Africa e il Golfo di Guinea. Se andiamo poi sul gas, la percentuale diventa l'80% del gas che Eni mediamente ricava in Italia, mediamente nel mondo, lo ricava in Africa. E allora facciamo questo copia e incolla. L'Italia, delle 42 missioni internazionali nelle quali è impegnata, e apro e chiudo una parentesi, o meglio, apro, sottolineo e chiudo una parentesi importantissima. Pochi, pochissimi sanno che l'Italia è il secondo paese al mondo presente per missioni internazionali militari. Prima sono gli Stati Uniti, e questo mi pare logico per la loro dimensione globale, politica, economica e quindi militare, diventa meno logico. Se è l'Italia, è la seconda nazione al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di missioni militari. Bene, di queste 42 missioni militari, 24 sono in Africa. E allora ecco che il binomio ENI, energia uguale missioni militari uguale imperialismo italiano, è un tutt'uno, diventa un fatto del tutto conseguenziale ed automatico. E allora, per illustrare questa tesi, per far capire questo legame tra energia, missioni militari e quindi primato economico che l'Italia cerca di ritagliarsi usando il territorio africano per i motivi che ho detto, sono state fatte cinque relazioni. La prima di Stefano Capelli. È stato un panorama interessante, sono state tutte dichiarate molto stimolanti, molto interessanti, che la politica energetica italiana tra la prima e la seconda repubblica, continuità e rotture, ha fatto proprio una storia dell'ENI, una storia quindi dell'energia italiana, per vederne poi le modificazioni, come si sono modificati nell'arco dal dopoguerra ad oggi. La seconda l'ho fatta io con un tema particolarissimo, l'ENI armata, dove ho sottolineato gli strettissimi rapporti tra l'ENI e l'apparato militare da una parte e l'ENI l'apparato diplomatico. Queste sono cose assolutamente non note, ma disarmanti se vengono dette, tutte notizie ovviamente tratte da documenti ufficiali. Lo slogan che noi è da anni che diciamo, che propagandiamo, che la politica estera italiana non la si fa a Roma, la fa a Nesina, ma la fa il consiglio di amministrazione che è qui a San Donato Milanese, diventa fatto concreto nella mia relazione, dove vado a specificare quali sono i rapporti di dipendenza strettissimi tra Ministero degli Affari Esteri e dirigenza dell'ENI, dove addirittura vengono dal 2009 che vengono accreditati, cioè distaccati fisicamente i responsabili delle relazioni estere dell'ENI presso il Ministero degli Affari Esteri e della Globalizzazione. Quindi la direzione strategica, le linee guida della politica italiana sono fatte sulle esigenze della unica multinazionale che c'è, che che è l'Ente Nazionale Idrocarburo, per poi sottolineare quali sono i rapporti dell'ENI con il mondo militare in specifico, con la Marina Militare, con l'Arma dei Carabinieri e soprattutto con i servizi segreti. La terza relazione di Antonio Mazzeo è entrata in uno specifico, nel dettaglio, delle avventure neocoloniali dell'Italia dal Sahel al Mozambico, per dare proprio ragione del perché l'Africa è al cuore del nuovo militarismo. Apro e chiudo parentesi. Non è che è al cuore del nuovo militarismo italiano solo, perché se è così attiva l'Italia lì è perché c'è l'ENI, ma se c'è l'ENI c'è anche la concorrenza, cioè c'è anche la Francia. E il capitalismo, per la sua logica, è una competizione per chi vince chi ha maggiori risorse e chi sa originare maggiori profitti. E sono lì, in quella terra lì, perché lì c'è attivo anche questa cosa assolutamente non nota, ma fondamentale e di strettissima attualità, è attivissima la penetrazione della Russia, dove proprio nel Sahel e nel Centro Africa. Perché è attivissima la penetrazione della Russia? Perché ha deciso di essere lì, e lì non con l'esercito ufficiale, ma attraverso la Wrangler, che sono i contractor più qualificati, tra i più qualificati al mondo, che sono i contratti russi. E lì perché la Russia sta stringendo ben 19 contratti con i paesi africani per la fornitura di centrali nucleari. Voi sapete che la Russia è un capitalismo a monocultura industriale, cioè si basa sull'energia, qualche materia prima, al di là della vendita delle armi, che naturalmente sono qualificati. L'altro asset fondamentale, strategico globale, è le centrali nucleari attraverso la società di Stato Rosatom. Ecco che quindi la penetrazione fortissima che stanno avendo in Africa è proprio per la vendita delle centrali nucleari. E quindi non è un caso che nel Sahel sono presenti, Sahel sostanzialmente la fascia sahariana, perché lì è ricchissima di uranio. E quindi se lì l'Italia c'è, non è solo per difendere ENI, ma per iniziare un confronto, per ora commerciale, non militare, con la Russia, alleata storica di quell'area che è la Francia. L'altro intervento è di Andrea Turco. La colonizzazione mentale, caso Enya Gera, è un giornalista che ha fatto un bellissimo libro sui danni ambientali della una delle più grandi raffinerie di ENI, che sono a Gela. E per ultimo, la relazione del nostro compagno Massimo Varengo, uno sguardo antiimperialista sulla guerra in Ucraina. Qui non è il focus ENI Africa, ma è comunque il focus su una vicenda che non si può sottacere, e guarda caso una vicenda che, ripeto, come ho detto prima, ha messo in primissimo piano la relazione tra energia e guerra. Lo ripeto ancora, poi non lo dirò più, cosa che non era scontato sino a qualche tempo fa. Quindi questo è stato il resoconto dell'iniziativa e ciò che faremo il 2, da Piazza Affari ci sposteremo praticamente in corteo. Non è neppure 1 chilometro, andiamo in Piazza Scala, e questo è molto significativo, perché abbiamo individuato quello che è l'obiettivo principale, che è la finanza. Quelle che sono le iniziative future e le prospettive di lotta. Le iniziative future, a parte la manifestazione del 2, già il 9 ci si mobiliterà a Torino, perché c'è una new entry purtroppo importante, cioè l'apertura dell'ufficio regionale delle missioni Delta della NATO, che si terrà a Torino. Missioni Delta sono una delle missioni più qualificate dalla NATO, e quindi si apre un nuovo capitolo NATO nella città di Torino, e saremo quindi presenti. Ci sarà un incontro convegno sull'ENI a Gela. Concluderemo la terza tappa di questo percorso antimilitarista iniziato a Torino a novembre, contro le missioni militari all'estero. Probabilmente lotteremo a Livorno, perché lì c'è l'Accademia Navale, perché lì parte il battaglione San Marco, il più qualificato, insieme alla Folgore, che lì è di stanza. E quindi faremo questa terza tappa di quello che era già stato disegnato allora, a conclusione di Torino-Milano, e la terremo probabilmente fine primavera, inizio estate a Livorno. Io sarò presente a Reggio per parlare dell'esercito europeo, di questo progetto che era passato poco all'attenzione dei media solamente 3 mesi fa, ma che già aveva anticipato di molto quello che poi è successo, cioè la necessità di avere una presenza unitaria europea per fronteggiare la competizione internazionale che si sta esternando drammaticamente in queste settimane nell'est tra Russia e Ucraina. Adesso non sto a dire tutte le iniziative che ci sono elencato, solo alcune. Il 22 aprile sarò all'Assemblea Popolare di Busto Arsizio per parlare di energia, di finanza e di guerra. A Pordenone faremo delle iniziative, primo un convegno con iniziative contro le caserme verdi, che sono un'altra creazione incredibile perché una degli sviluppi più profondi del mondo militare è la svolta al verde, che ha dei significati che non sono ovviamente ecologici per salvare il mondo, ma ha significato proprio intimamente strategico, cioè sostanzialmente ricercare carburanti che non siano i fossili, ma che siano più efficaci, che permettono costi, una significativa riduzione di costi, e quindi chi riduce i costi del mantenimento dell'apparato militare è strategicamente, militarmente vincente. Poi ci saranno altre iniziative a maggio che terrò in centro Italia, a Roma e sul lago Trasimeno, sempre il rapporto tra ENI, finanza e apparato militare. Va Per bene, ultimo, perfetto. Ah, no, scusa, scusa, pensavo di... no, l'ultimissimo, che è doveroso ricordarlo. Le spese militari sono passate da 25 miliardi a 38 miliardi. Attenzione, sono escluse le spese degli armamenti, perché le spese degli armamenti vengono approvati con leggi a parte, leggi settennali. Quindi gli attuali 38 miliardi sono per il puro e semplice mantenimento delle quattro armi, esercito, marina, arma dei carabinieri e aeronautica. Che cosa vuole dire? Vuole dire 104 milioni al giorno. Noi abbiamo fatto un lavoro che adesso non posso stare qui a dettagliare, vi do solamente un semplice dato. Abbiamo spulciato dei conti della Ragioneria dello Stato, quindi cifre certe, tutte le spese sociali: cosa costa una scuola, cosa costa una terapia intensiva, cosa costa un trapianto di cuore. Cosa costa un'assistenza sociale, cosa costa uno studente, cosa costa un insegnante, e li abbiamo paragonati ai 104 milioni che oggi si spendono quotidianamente per 365 giorni a modo militare. Vi do solo un dato: una scuola di nuovissima costruzione, tripla classe A, energetica con tutti i crismi, di scuola media, all'incirca 150 studenti, viene a costare 10 milioni e 10, scusate, viene a costare 10 milioni e 200 mila euro circa, completamente nuova. Quindi in un solo giorno di spesa militare io sarei in grado di fare sostanzialmente 10 scuole. Ecco, questo è l'impatto di cos'è il mantenimento dello strumento militare, che, ripeto, serve poi per assicurare i profitti della produzione del capitale e non solo dell'energia e non solo delle banche. Ecco, con questo ritengo di avere concluso. Ok, perfetto. Sì, anche i dati che ci hai riferito all'ultimo sono abbastanza eloquenti. Allora, io volevo ricordare, già che ci siamo, che per contattarvi lo si può fare sia tramite la pagina Facebook Assemblea Antimilitarista, sia su Instagram, sempre scrivendo Assemblea Antimilitarista, oppure c'è l'email assembleantimilitarista@gmail.com. Allora, Sì. rilanciamo l'appuntamento del 2 aprile. Il corteo si snoderà da Piazza Affari a Piazza della Scala, E partirà all'ora, scusa perché l'orario forse Alle non l'abbiamo detto. 14:30. Perfetto, alle 14:30, quindi rilanciamo questo importante appuntamento di sabato 2 aprile. Sei stato super completo, quindi io non ho veramente domande da farti e ti ringrazio per la disponibilità. Ringrazio tutti voi. A Ok, presto, arrivederci a perfetto, tutti. grazie mille, grazie mille. Arrivederci a tutti, grazie.